as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. È la trasmissione dei lavoratori metalmeccanici, dei lavoratori dell'industria, dei lavoratori in genere. Da noi ormai sono ormai anni che raccontiamo quello che accade nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, anche parliamo di arte, di cultura, anche di sport abbiamo parlato. Tutto legato al lavoro, tutto legato alle lotte, alle battaglie, ai buoni accordi, alle disgrazie che affliggono i lavoratori. Oggi parliamo di una sfiga che è capitata a dei colleghi di lavoro, parliamo dei lavoratori della logistica della Bonfiglio dei Tuttori, della ditta B-Cube, che è una ditta ormai diventata famosa a Bologna, che seguono diversi appalti in diversi luoghi di lavoro abbastanza importanti. Non facciamo pubblicità a questi posti. I Bonfiglioli ci sono loro da un po', sono arrivati, penso sono stati, sì, il primo appalto, la B-Cube è un'azienda, penso, piemontese di logistica, sono proprio in Bonfiglioli, adesso si è allargata, e qui è successo un problema. Poche settimane fa la Bonfiglioli dei Riduttori, voglio annunciarvi che anche io lavoro lì, chi segue le trasmissioni lo sa, purtroppo siamo entrati in cassa integrazioni, la crisi di cui abbiamo parlato stava per arrivare, è arrivata, sta colpendo non solo l'automotive, ma sta colpendo l'industria, anche se questo governo dice che non è mai andata così bene l'economia in questo paese, l'occupazione. In realtà poi Federmeccanica è solo 24 ore, il giornale della borghesia, ma lo dice anche il sindacato, pare che 4 aziende su 6 oggi metalmeccaniche in Italia sono in cassa integrazione, e c'è anche la Bonfiglioli. La Bonfiglioli ha acquisito un'azienda, voi l'avete, abbiamo seguito la vicenda, chi segue il Pane Rosso lo sa, potete andare a vedere le vecchie puntate su un podcast della Samp Ingranaggi, un'azienda importantissima bolognese, una famiglia molto importante di Bologna che è fallita, e la Bonfiglioli ha acquisito un ramo di questa azienda e finalmente ha assorbito tutti i lavoratori nello stabilimento di Calderaro di Reno. Momento di crisi, acquisizione dei lavoratori, sono arrivati da noi. La Bonfiglioli doveva costruire questi capannoni, poi alla fine hanno ridimensionato l'azienda, sono riusciti a inserire le macchine di Asamp all'interno, ci sono tutti i lavoratori della logistica, e la Bonfiglioli ha pensato, visto la situazione un po' delicata che sta vivendo, di riprendersi dalla B-Cube un magazzino. E qui sono arrivati i problemi, perché questi 8 lavoratori della B-Cube a un certo punto si sono trovati senza più il loro tipo di lavoro in quel magazzino. Ed è nata una vertenza. Noi ne abbiamo parlato con Alessio Pittarello, un compagno della FIOM. Dite, come mai? Sono logistica, applicano tutti i trasporti, però c'è la FIOM? Sì, perché un vecchio contratto del 97 della Bonfiglioli prevede che la FIOM segue l'aspetto della logistica di questa azienda. Magari fosse così dappertutto, però noi abbiamo questa fortuna. Che ha fatto anche la fortuna dei lavoratori della logistica della Bonfiglioli, perché hanno acquisito più o meno gli stessi nostri diritti da anni, hanno un buono stipendio anche loro, insomma, c'è una situazione abbastanza ottima, possiamo dire, di contrattuale, salariale, di diritti, e non vogliono mollarla questi lavoratori. Abbiamo parlato con lui, con Pittarello, e sentirete dopo questo bellissimo pezzo l'intervista, e poi ci sentiamo per le conclusioni. A dopo. Positive Anti Control. Plan de la.

senza riprendere però il personale. Quindi questo significa che da qui a 2 settimane, cioè entro il 15 ottobre, le attività di una parte di noi verranno riprese da Bonfiglioli, senza dare la possibilità o la prospettiva di avere un'altra attività sempre nella fabbrica della casa madre, chiamiamola così. Quindi l'unica prospettiva che abbiamo di fronte è da un lato affiancare i lavoratori Bonfiglioli affinché diventino autonomi fra 15 giorni, e dopodiché non c'è un posto per noi, di fatto non c'è il posto. L'unica possibilità che ci hanno prospettato è di valutare sul territorio, in altri siti dove lavora B-Cube, se c'è posto per noi. Anche quello non è così certo in realtà, no, o almeno non da subito. Questo comporta una serie di considerazioni, cioè prima di tutto il fatto che si scarica, come dire, la situazione problematica su un'altra azienda senza, come dire, è un problema di un'altra azienda, non nostra, da parte di Bonfiglioli. E questa cosa ricade, cioè accaduta, ricadrà su altri lavoratori, perché comunque il posto per noi da cercare sul territorio, che oggi non c'è, significherà molto probabilmente che altri lavoratori dovranno lasciare il loro posto per darlo a noi. Qui in Bonfiglioli c'è anche un subappalto, oltretutto. Infatti. C'è un subappalto costituito, allora noi qui dentro siamo circa 40 persone, ce ne sono un'altra trentina di subappalto in cooperativa che lavora sempre nella logistica. Che la B-Cube, è sotto la B-Cube questa cosa? Sotto la B-Cube, è un subappalto della B-Cube. Un'altra trentina di lavoratori che in questo momento non sono coinvolti perché, come dire, non c'è sul tavolo la possibilità di recuperare posti nei loro perimetri occupazionali. E noi di fatto non abbiamo neanche voluto discuterne per il motivo che dicevo prima, insomma, proprio perché non è che il nostro problema deve ricadere su qualcun altro. Quindi, come dire, adesso sono 2 giorni che siamo in sciopero di fatto. Lo sciopero fortunatamente ha coinvolto e ha visto partecipare tutti, la totalità dei nostri colleghi, perché si è capito che è un problema che oggi riguarda una parte di noi, ma dal giorno dopo riguarderà un po' tutti, insomma. Oltretutto, come dire, la situazione è chiara, quegli 8 posti non hanno un nome ad oggi, quindi già da oggi in realtà può riguardare tutti. Poi c'è anche la questione che a settembre 2025 scade il contratto con Bonfiglioli. Scade, il 30 settembre 25 scade l'appalto, quindi già da oggi c'è tutta una serie di negoziazioni in corso tra le 2 aziende che troveranno le loro soluzioni commerciali, eccetera, ma insomma questo è un aspetto secondario. Quello che conta è che, come dire, l'occupazione, che è il nostro principale tema, la nostra principale preoccupazione deve essere risolta provando a mettere al tavolo, insomma, un po' tutti gli attori di questa situazione, cioè tutte le aziende che vengono coinvolte. Non so se Gian Placido. Sì, la questione che, insomma, i lavoratori di Bonfiglioli sono un po' titubanti, no? Perché c'è la crisi e la Bonfiglioli sta cercando in qualche modo di... forse molto probabilmente ci sono delle persone in più, c'è stato l'assorbimento di Samp, e questa cosa, perché infatti nel vostro magazzino ci andranno a lavorare le persone che lavorano oggi a Sani. Una parte di quel personale. Personale. E questa cosa qui sta complicando, però comunque c'è un comunicato RSU FIOM della Bonfiglioli, firmato anche da me, che è in cui noi diamo solidarietà e abbiamo chiesto un incontro, perché chiaramente la Bonfiglioli non può dire io non c'entro niente, ma deve far sì che la B-Cube trovi una soluzione adeguata a voi, soprattutto anche per prospettive per il futuro. Sì. Beh, diciamo intanto che è stata aperta la procedura di cassa integrazione nel sito, per cui anche questa cosa qui complica un po' tutta la vicenda. Certo. Complica la vicenda e complica anche le trattative, ovviamente, che stiamo provando a portare avanti. Preciso che in questo momento non ci sono trattative in corso tra le parti sociali, la cassa integrazione, ecco, diciamo che il punto che noi contestiamo non è il fatto che, come dire, di salvare tra virgolette il reparto o l'attività che noi vogliamo tenerci in mano. L'azienda può avere le sue ragioni funzionali, organizzative per cui riprendersi delle attività, e non è questo che stiamo contestando. Insomma, noi contestiamo il fatto di, che se c'è un problema di troppo personale, diciamo così, nel sito, che venga affrontato a livello di sito, insomma. Anche perché è chiaro che subappalto, appalto, appalti, non ce n'è uno solo, ci sono anche altri appalti qui dentro. E questa è anche casa vostra, rispondendo a qualcuno che ha detto che insomma questa non era casa vostra. Sì, ci è stato detto anche durante uno sciopero che stavamo facendo nella giornata di ieri, tra l'altro. Abbiamo fatto un'assemblea in sciopero nel prato davanti alla fabbrica ed è uscito un personaggio da Buonfiglioli dicendoci non facciamo nomi dicendoci che questa non è casa nostra, insomma non era il posto adeguato dove poter fare un'assemblea e che quindi avremmo dovuto trovare un posto più adeguato. Tra l'altro vi posso anche dire che un posto più adeguato non esiste, perché non ci hanno mai consegnato, diciamo, una zona, un'area dove poter fare, svolgere delle assemblee. Saletta sindacale, siete in pochi, fortunatamente, ogni tanto le fate sì, lì. Sì, finora abbiamo usato la saletta sindacale. Nostra. Che era dei delegati Buonfiglioli, insomma, con cui abbiamo sempre avuto un ottimo legame, devo dire. Certo. La domanda che io ti faccio, che mi facciano spesso i lavoratori della Buonfiglioli anche poi in giro, ma visto che voi avete altri appalti anche importanti, perché non volete andare in questi appalti e volete trovare una soluzione qui in Buonfiglioli? Allora, ci sono diverse ragioni. Intanto per cominciare, all'ultimo incontro che abbiamo avuto con l'azienda non è stata, come dire, sviscerata nei dettagli la questione. Quindi l'unica soluzione che ci hanno prospettato è stata esattamente quella di iniziare a discutere e valutare un trasferimento in altra sede. È vero anche che noi abbiamo degli accordi storici che, tra l'altro, firmati pure da Buonfiglioli. Inizialmente, sto parlando di esattamente a cominciare da 25 anni fa, quando è stato esternalizzato il pezzo della logistica in questione. L'accordo è stato firmato proprio da Buonfiglioli con i suoi delegati inizialmente e prevede una serie di tutela per quei lavoratori, a partire da lì e anche per i futuri assunti nell'appalto. Una delle tutele è proprio quella di non poter essere trasferita in altri siti se non volontariamente. Questa è una delle ragioni per cui iniziare una discussione dove immaginare di trasferire del personale con tutte le incertezze del caso, senza sapere neanche se i posti ci sono effettivamente, ed avere quella come unica opzione, per noi non è accettabile, insomma, nel senso che alcuni di noi lavorano da 30 anni per la Buonfiglioli, mediamente sono una ventina d'anni, io stesso sono 20 anni che lavoro qui dentro, quindi valutiamo pure i trasferimenti, non lo escludiamo, ma all'interno di una serie di soluzioni possibili, condivisibili, che possono essere più svariate, insomma, non è che siamo senza idee al riguardo. Poi possiamo dire anche che negli altri siti non ci sono le condizioni di sicurezza e di diritti e di salariali che avete voi qua. Le condizioni, diciamo che poi, tra l'altro, gli appalti che sono sul territorio sono anche stati acquisiti da un paio d'anni, B-Cube fino a 2 anni fa non aveva nulla sul territorio. Adesso la mia idea particolare al riguardo è che, come dire, se in Buonfiglioli abbiamo vissuto negli anni essendo sempre in appalto con dei rinnovi continui o con dei cambi di appalto, abbiamo sempre vissuto il lavoro con questo fantasma del precariato sulla testa, uscendo da Buonfiglioli dopo 30 anni di lotte per conquistare dei diritti per una contrattazione interna che c'è, che è solida, che è sostanziosa. Uscire da qua significa finire nel precariato certo, insomma. Questi appalti di cui parlavo ci sono per ditte anche grosse, ma esistono da poco e hanno scadenze anche quelli, per cui sarebbe decidere di finire nell'incertezza assoluta, diciamo. Ecco, Ti ringrazio Alessio, buona fortuna, saremo con voi, siamo con voi e vediamo di risolvere questo problema, perché questa è anche casa vostra, è casa nostra. Grazie, grazie a te Gian Placido. Man, back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Dancing a Babylon until it's thrown a fall. I did now you see teachings of the Rasta man. Back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Hey. With righteousness, I will bring her to my heart. Allora, avete ascoltato dopo i Mellow Mood, Alessio Pittarello della B-Cube, ripitoliamo, un'azienda di logistica della Bonfiglio Riduttori, che in questo momento c'è un problema occupazionale, speriamo che non sia molto molto grave, in cui i lavoratori della B-Cube sono entrati in sciopero, stanno facendo delle mobilitazioni, questi giorni stanno continuando le mobilitazioni in attesa di trovare la soluzione per questi 8 lavoratori di questo magazzino in Bonfiglio Riduttori. Sono 44 in realtà che lavorano in Bonfiglioli, sono 8 in questo magazzino e questi lavoratori ad oggi non hanno idea di dove finiranno, dove andranno a lavorare, se andranno in un'altra ditta, dove finiranno, insomma, cioè, se andranno al posto di lavoratori della cooperativa di Amex, che sempre è un subappalto sempre di B-Cube della Bonfiglioli Riduttori. Avete sentito Pittarello le varie proposte che ci sono. Io vorrei sintetizzare la questione dicendo che in Italia, non è un problema di Bologna, in Italia c'è un problema enorme, la questione degli appalti. In questi anni siamo passati da aziende in cui addirittura anche chi era in portineria era tipo, io mi ricordo quando ero piccolo, io sono cresciuto in una zona industriale dell'Abruzzo, e ricordo che avevo degli amici che avevano i loro genitori che facevano i portinai in queste aziende e facevano la sicurezza di queste aziende grosse, metalmeccaniche, industria sia del vetro per auto che industrie legate all'automotive, e loro erano dipendenti di queste aziende. Oggi penso che sia impossibile trovare delle persone che stanno in portineria per la sicurezza, che sono dipendenti, usano le cooperative. E si è passato poi alla logistica, si è esternalizzato, cioè non solo si è delocalizzato, ma anche all'interno delle aziende tutta una serie di attività sono state esternalizzate per abbassare i costi. I padroni sono, sappiamo benissimo, non, loro più possono fare profitto e più possono pagare meno i lavoratori e più sono contenti. In questi anni abbiamo visto come in tutte le aziende è stato fatto questo, ma anche nel pubblico impiego, anche negli ospedali, da iniziare da Finmeccanica a Fincantieri, dove il 50% sono tutte cooperative, arrivare agli ospedali, anche nei comuni, vediamo che ci sono cooperative su cooperative, ditte esterne e tutto il resto, per poter pagare meno c'è questa giungla, questa anarchia degli appalti, dei subappalti, di cui abbiamo parlato più volte. C'è stato un morto sul lavoro adesso nelle ferrovie, c'è stata una manifestazione, oggi pomeriggio ci sarà una manifestazione per ricordare questo lavoratore che è morto nelle ferrovie. Ma sappiamo benissimo che tra le cause maggiori delle morti sul lavoro ci sono gli appalti. E c'è anche la questione che, come ci ricordava Alessio Pittarello, una ditta in appalto, un lavoratore che lavora anche a tempo indeterminato per una ditta, ad esempio, di logistica che è in appalto per un'azienda, è sempre precario. Perché fondamentalmente chi lavora in appalto lavora, le ditte che prendono l'appalto hanno dei contratti. E spesso quando scade il contratto anche i lavoratori rischiano di non trovare lavoro. È tutto qui, tutto lì il discorso. Cioè, in Bonfiglieri in questi anni abbiamo lottato perché anche quando c'era un cambio di ditta tenevamo sempre i lavoratori che lavoravano, e questo è stato importante. Il rischio e la paura che hanno questi lavoratori è di non lavorare più in Bonfiglioli, ma di finire nella giungla degli appalti, anche di finire in un altro cantiere, che poi alla fine, quando finirà questo cantiere, trovarsi senza lavoro. Il problema è molto grande. È chiaro che qui serve una battaglia a livello nazionale, sia contrattuale, dei contratti nazionali, sia dei contratti interni, per affrontare la questione degli appalti. Bisogna impedire che le aziende subappaltino, questa catena degli appalti utilizzino questo sistema per poter pagare meno i lavoratori, perché c'è una situazione di precarietà, di vita, di diritti, di sicurezza che non è più accettabile. Ecco, noi siamo con i compagni della B-Cube, siamo favorevoli alla loro battaglia, saremo al loro fianco, cercheremo di coinvolgere i lavoratori. Non è semplice in Bonfiglioli per quello che sta succedendo, l'intervista è chiara di come spesso si finisce di mettere un lavoratore contro un altro e di creare delle divisioni, egoismi che esistono dai lavoratori, lo fanno apposta. Gli appalti e subappalti nascono per quello, perché il lavoratore vede il collega come non facendo parte della propria azienda, no? Lui è un'altra cosa. Quante volte mi sono sentito ripetere da alcuni lavoratori della Bonfiglioli: loro della B-Cube non sono Bonfiglioli, no? È così uguale per la B-Cube, per la cooperativa, che loro non sono della B-Cube, è uguale, è una catena che noi dovremmo spezzare e unire i lavoratori nelle battaglie, ed è l'appello che ogni marxista ha sempre in testa. Lavoratori di tutto il mondo, unitevi, speriamo che riusciremo a unire quelli della Bonfiglioli per vincere questa battaglia, per poi vincere una molto molto più grande, partendo da Bologna, in Emilia Romagna, in Italia e in tutto il mondo. Ecco, questo grande auspicio che ho fatto, speriamo che sia vero. Orgoglioso de estar.